C'è una piccola ancora. Occupazione. Oh ciao, chi si rivede? Che fai? Ancora in cerca di occupazione? Eh già, come tutti. Ogni tanto un lavoretto, per il resto mi mantengo nei miei brontolando. Non si può andare avanti così. Colpa degli extracomunitari che ci fregano i posti, lavorando per pochi euro e al nero. Ma tu lavoreresti per pochi euro e al nero? No, di certo.